6. Le Costituzioni. Per una decina di anni i ribelli americani avevano ridotto il loro governo alla sua nuda realtà, alla forza. Poi la dichiarazione di indipendenza abolì ogni governo nelle colonie. Governatori reali avevano governato con l'autorità delle carte. Una carta era una dichiarazione scritta dell'autorità che il governo britannico concedeva al governatore di una colonia e delle libertà che concedeva ai suoi sudditi. Poiché queste carte erano concessioni di libertà, all'inizio gli americani avevano lottato per mantenerle. Il governo britannico aveva ovviamente il diritto di revocare le sue concessioni e talvolta lo fece. Gli abitanti del Connecticut, quando la loro carta fu revocata, la rubarono e la nascosero in un albero per mantenere le loro libertà. Ora si rendevano conto di quanto fosse assurdo credere che un governo potesse dare la libertà a qualcuno. La dichiarazione di indipendenza era anche un'affermazione che gli uomini sono naturalmente liberi. Questa dichiarazione abolì il governo, ma qui c'era la guerra, il caos. Le truppe del re stavano avanzando da nord, la flotta del re stava salpando verso il porto di New York. Era passato il tempo in cui i singoli potevano attaccare la Gran Bretagna. Questa era la guerra, oppure era una spedizione punitiva per pacificare, tra virgolette, le colonie con rappresaglie militari, legge marziale, il corpo di ogni firmatario della dichiarazione appeso per il collo a una forca. Solo un governo può fare la guerra. I rivoluzionari devono avere l'autorità di mobilitare, armare, comandare e nutrire le truppe e di pagarle, se possibile, e di riscuotere le tasse per pagare i conti. Da tutte le colonie i messaggeri si recarono in fretta e furia al Congresso continentale, con lettere che chiedevano istruzioni e una concessione di autorità. In fretta e furia tornarono indietro con lettere e notizie che dicevano che i politici sapevano a malapena cosa fare. Non riuscivano a mettersi d'accordo sulle misure da adottare, non avevano denaro e non avevano il potere di procurarselo, e che la cosa essenziale da fare era combattere in qualche modo, soprattutto combattere. Le truppe del re stavano sbarcando a Long Island. In ogni colonia alcuni uomini avevano pensato al fondamento del governo civile nella natura morale e fisica dell'uomo. Poiché ogni individuo si autogoverna, gli uomini che ricoprono cariche pubbliche non hanno alcuna autorità naturale su nessuno se non su se stessi. Ogni autorità che esercitano su un altro uomo deve essere loro concessa da quell'uomo. Così, mentre impartivano ordini senza alcuna autorità, se non il consenso diretto di chiunque obbedisse, i leader della rivoluzione chiedevano una concessione generale di autorità a tutti gli uomini dello Stato. Il tempo e lo spazio non consentivano di riunirsi tutti in un unico luogo, dovevano riunirsi in molti luoghi e ogni gruppo doveva inviare qualcuno che rappresentasse tutti gli individui di quel gruppo. Le circostanze portarono quindi gli americani a inventare un dispositivo nuovo e unico, la Convenzione dei Delegati. Generazione dopo generazione di coloni, nei loro insediamenti sparsi e non protetti, si erano naturalmente riuniti in ogni momento di pericolo e avevano mandato un uomo a chiedere aiuto, a contrattare se necessario e a stipulare contratti per loro. Erano quindi abituati a delegare a un solo uomo il loro diritto naturale alla libertà di parola e di contratto. Ora lo mandavano a cavallo attraverso i boschi per scoprire cosa stava succedendo e per assicurarsi che nessuno facesse un governo che non avrebbe accettato. Spesso, prima che raggiungesse il luogo dell'incontro, le truppe del re erano lì e qualcuno gli disse che i delegati intendevano riunirsi più tardi da qualche altra parte. Tra allarmi, sconfitte e ritirate, la maggior parte dei delegati si riunì. Alcuni di loro presero in mano delle penne e scrissero dei sostituti delle carte reali. Erano abituati alle carte, ci doveva essere un documento da mostrare ai loro concittadini. I rivoluzionari americani non tentarono di governare come tutti i governanti del vecchio mondo avevano sempre fatto e continuano a farlo, senza alcun tipo di autorità scritta. Le carte reali erano state concessioni di libertà da parte del governo ai suoi sudditi, si basavano sulla vecchia convinzione che l'autorità controlla gli individui, che questa autorità è il governo e che nessun individuo può fare qualcosa senza il permesso di questa autorità. Ma gli americani sapevano, e la dichiarazione lo affermava, che non esiste un'autorità superiore. Tutti gli uomini nascono allo stesso modo, dalla stessa specie umana e sono ugualmente dotati di libertà inalienabili. Pertanto, Sono gli uomini al governo che non possono fare nulla senza il permesso degli individui che loro si illudono di governare. Ciò significava capovolgere tutte le esperienze passate del vecchio mondo. Non c'erano precedenti nella storia conosciuta di un governo che non fosse ritenuto un'autorità di controllo. Ma c'erano le carte reali. Bisognava solo capovolgerle. Così i delegati scrissero documenti che prevedevano la concessione di alcune libertà dalla gente di casa agli uomini che ricoprivano cariche pubbliche. Questi documenti furono le prime costituzioni della storia del mondo. Il lavoro successivo consisteva nel convincere i delegati, o la maggior parte di essi, ad acconsentire alla concessione di queste libertà e a questo nuovo tipo di governo. Il lavoro successivo consisteva nel convincere i cittadini a casa ad accettare le azioni dei loro delegati. Ma la gente a casa era stufa del governo, non ne voleva sapere. Pensavano al governo, come tutti noi, come al tipo di governo che conoscevano, pensavano a una autorità immaginaria che sapevano non esistere e a uomini che fingevano di usare l'autorità e in realtà usavano la forza per impedire la liberazione individuale, per impedire ai commercianti di commerciare dove volevano commerciare, ai marinai di navigare dove volevano andare, ai contadini di tagliare gli alberi sulla propria terra. La gente a casa era fuori, con i moschetti a combattere il governo. Non intendevano lasciare che un nuovo governo crescesse come le odiate foreste che spuntano sempre di nuovo dai ceppi nei loro campi, con la stessa velocità con cui avevano abbattuto quello vecchio. Così, in ogni colonia, ora Stato, perché queste colonie unite sono e di diritto dovrebbero essere stati liberi e indipendenti, la gente comune resistette e rifiutò queste nuove costituzioni. Passarono 2 anni prima che ogni Stato avesse un governo e per 12 anni, mentre i leader della rivoluzione cercavano di eludere le truppe del re e di tenere insieme in qualche modo un esercito e di ottenere cibo, scarpe, polvere, proiettili per i soldati da piccoli politici e imprenditori corrotti che si riempivano le tasche e lasciavano morire i soldati, e mentre cercavano di ottenere l'aiuto francese contro gli inglesi e di prendere in prestito denaro dalla Francia, e poi di negoziare il trattato di pace a Parigi e di tenere unito il congresso continentale e di impedire agli stati di iniziare guerre tra loro e di risolvere le dispute sui confini e di trovare un modo per pagare qualcosa sul debito alla Francia prima che un esercito francese arrivasse a riscuoterlo. Beh, mentre facevano tutto questo, cercavano di persuadere la gente a casa ad accettare le costituzioni. A malincuore e con grande sospetto gli americani accettarono finalmente questo nuovo tipo di governo, ma solo a condizione che ogni costituzione, oltre a concedere alcuni permessi illimitati agli uomini di governo, vietasse definitivamente l'uso della forza, come i governi avevano sempre fatto. Questi divieti sono chiamati Bill of Rights, Carte dei diritti. Il nome non è buono perché non è accurato, confonde una mente disattenta. Il nome Bill of Rights è inglese, è un'espressione precisa dell'Inghilterra. Il Bill of Rights inglese è una dichiarazione di alcune libertà che il governo britannico concede ai suoi sudditi. La Carta dei diritti americana è l'esatto contrario di quella inglese. Il Bill of Rights nelle Costituzioni americane è una dichiarazione dell'uso della forza che i cittadini americani non permettono agli uomini del governo americano. Questa differenza è della massima importanza, è l'essenza di questa rivoluzione mondiale. Questa differenza è l'intera differenza tra il governo rivoluzionario americano e tutti gli altri governi della storia passata o della terra attuale. Questo è il punto da cui dipende oggi il futuro del mondo intero e da questo punto precisamente dipende la sicurezza personale di ogni americano, la sua libertà, la sua vita. Se gli americani dimenticano che al governo americano non è consentito trattenere o costringere alcun individuo pacifico senza il suo libero consenso, se gli americani considerano l'uso della loro libertà naturale come concesso loro da uomini a Washington o nelle capitali degli stati, allora questo terzo tentativo di stabilire l'esercizio dei diritti umani sulla terra è finito. Questa limitazione del governo è la nostra difesa contro l'antica tirannia che regna oggi in Europa, è la protezione della vita di ogni americano, è la sua sicurezza dalla Gestapo, dall'OGPU, dai torturatori, dal plotone di esecuzione, dalla rivoltella alla nuca in cantina. La controrivoluzione che ora minaccia ogni americano non è solo una questione di sottomarini e bombardieri. In questo paese, nelle menti americane, nella mente e nello spirito di ogni persona americana, la libertà su questa terra deve essere difesa. Tutto ciò che un americano apprezza, la sua proprietà, la sua casa, la sua vita, il futuro dei suoi figli, dipende dal fatto che gli tenga ben chiare nella sua mente le basi rivoluzionarie di questa Repubblica. Questa base rivoluzionaria è il riconoscimento del fatto che i diritti umani sono diritti naturali che nascono in ogni essere umano con la sua vita e sono inseparabili dalla sua vita. Non sono diritti e libertà che possono essere concessi da qualsiasi potere sulla terra. Gli americani detengono questa verità, questa conoscenza attacca e da 160 anni lo fa, le fondamenta stesse del vecchio mondo. Questa è la conoscenza che i difensori del vecchio mondo sono ora determinati a distruggere completamente. Il governo americano non è un'autorità, non ha alcun controllo sugli individui e nessuna responsabilità per i loro affari. Il governo americano è un permesso che individui liberi concedono a certi uomini di usare la forza in modi necessari e strettamente limitati. Un permesso che gli americani possono sempre ritirare al governo americano. Le costituzioni americane sono dichiarazioni dei permessi che gli americani hanno concesso in passato agli uomini che ricoprono cariche pubbliche. E ogni costituzione contiene una dichiarazione degli usi della forza che gli americani vietano a questo governo. La Carta dei diritti americana è in realtà una carta dei divieti. Proibisce agli uomini che ricoprono cariche pubbliche qui di compiere atti che erano consueti in ogni altro luogo quando queste leggi furono scritte, che oggi continuano o sono riprese quasi ovunque su questa terra. Il vero corso rivoluzionario che deve essere seguito verso un mondo libero è un processo cauto e sperimentale di ulteriore diminuzione dell'uso della forza che gli individui consentono al governo, di aumento delle proibizioni dell'azione del governo e quindi di diminuzione dell'uso della forza bruta negli affari umani. Questo è l'unico percorso verso un mondo più ricco, perché l'unica energia che crea ricchezza è l'energia umana. L'uomo è in grado di utilizzare efficacemente la propria energia autocontrollata per raggiungere il suo obiettivo naturale di migliorare le condizioni di vita, proprio nella misura in cui nessun uso della forza lo frena. Durante il primo secolo della rivoluzione, gli americani hanno fatto, provato, respinto e sostituito costituzioni per un totale di 103. In questo secondo secolo gli americani hanno continuato a fare e rifare costituzioni. Mai prima d'ora sulla terra, mai da nessuna parte in 6.000 anni c'è stata una cosa del genere, una moltitudine di esseri umani che creano costantemente il proprio governo. I due strumenti creati dai rivoluzionari americani, la Convenzione dei Delegati e la Costituzione, non erano mai esistiti prima. La Costituzione concede e limita il potere degli uomini al governo. La Convenzione dei Delegati è lo strumento che gli americani utilizzano per modificare le loro costituzioni. Gli americani possono sempre diminuire o ritirare pacificamente e legalmente qualsiasi potere che gli americani in passato hanno concesso ai politici. Gli americani possono sempre aumentare in qualsiasi misura le limitazioni al governo che sono chiamate Bills of Rights. Quindi nessun americano può giustamente lamentarsi di ciò che fanno gli uomini che ricoprono cariche pubbliche finché non usa o cerca di usare gli strumenti che i leader di questa rivoluzione hanno creato e gli hanno dato allo scopo di frenare gli uomini a cui permette di governarlo e di portare avanti questa rivoluzione nel futuro. Per esempio, recentemente si è protestato per l'aumento del debito pubblico. Non intendo discutere di finanze, ma l'unico americano che può onestamente opporsi all'entità del debito nazionale, per quanto grande o pericoloso, è un cittadino del Nebraska. I cittadini del Nebraska non permettono ai loro politici di indebitarli. Un cittadino del Nebraska controlla il suo denaro. Ogni cittadino del Nebraska che ha un debito se lo è procurato da solo. La Costituzione del Nebraska non permette ai politici di Lincoln di contrarre un debito per altri cittadini del Nebraska. Il Nebraska ha ottime strade, ottime scuole, ogni istituzione pubblica che si possa desiderare. Sono state pagate. Il Nebraska ha la più bella capitale di questo paese. È costata 10 milioni di dollari pagati in contanti. Ogni centesimo di 10 milioni di dollari è lì, trasformato in bellezza e utilità, in metallo, marmo e vetro. Quando i cittadini del Nebraska spendono 10 milioni di dollari per il loro stato, ottengono un valore di 10 milioni di dollari. Non ottengono 6 milioni di dollari e lasciano che il saldo evapori in interessi pagati ai creditori. Il Nebraska non ha un debito pubblico. I cittadini di ogni stato hanno gli stessi mezzi per uscire dal debito. Se non vogliono ipotecare la vita dei loro figli, devono solo modificare le loro costituzioni. Che spettacolo è questo! Dopo 6.000 anni di miseria umana, di schiavitù e di fame, alcune persone ai margini di una regione selvaggia vedono che l'intera visione della vita umana è falsa. Iniziano una rivoluzione contro il mondo intero, combattono, muoiono di fame e di freddo e muoiono per avere l'opportunità di iniziare questa rivoluzione. Creano un nuovo tipo di governo che non ha alcun potere che gli individui non gli concedano. Creano gli strumenti che serviranno per sempre alle generazioni future come strumenti per controllare e ritirare il potere concesso allora. Il rilascio di energia umana è formidabile. Rende i pronipoti di questi leader rivoluzionari le persone più ricche e potenti della Terra. Inizia a cambiare la vita umana su tutto il globo e questi pronipoti, eredi della rivoluzione, ereditari di questa nuova conoscenza della libertà e della responsabilità individuale, di questa ricchezza senza precedenti, di questo potere mondiale, avendo in mano questi strumenti rivoluzionari unici con cui gli individui limitano e controllano e ritirano l'autorità che concedono al governo. In ognuno di questi stati siedono gridando che il governo sta spendendo troppo del loro denaro e che il governo dovrebbe fare qualcosa per frenarsi. Beh, che strano spettacolo è il Nebraska. Se come cittadini del Nebraska i suoi abitanti si oppongono al debito pubblico, perché non si oppongono come americani, visto che sono anche cittadini della Repubblica? Hanno nelle loro mani e sono ben abituati a usarli i mezzi per controllare il loro debito di americani, perché non aggiungono alla loro Costituzione il divieto di spendere il denaro federale preso in prestito in Nebraska come carità per i cittadini del Nebraska. La Costituzione federale non permette agli uomini che ricoprono cariche federali di usare la forza per costringere i cittadini di qualsiasi stato ad accettare denaro dal governo federale. Non sto parlando del debito pubblico. Il debito pubblico è un problema nuovo per gli americani. Un secolo fa nessuno lo immaginava. Allora il Congresso non sapeva cosa fare di tutto il denaro in eccedenza del Tesoro e alla fine lo restituì agli stati. Gli americani che hanno iniziato questa rivoluzione non potevano immaginare nessuno dei problemi di oggi. Anche 30 anni fa la maggior parte di essi era inimmaginabile. Ma la responsabilità per qualsiasi cosa facciano gli uomini del governo americano è dei singoli cittadini. Gli uomini che hanno iniziato la rivoluzione hanno creato e lasciato in eredità a ogni futuro americano gli strumenti per ridurre progressivamente l'uso della forza negli affari umani. Ogni americano eredita questi strumenti unici, la Costituzione, che controlla gli atti degli uomini che ricoprono cariche pubbliche, e la Convenzione dei Delegati, che è il mezzo pacifico per modificare la Costituzione. L'americano che lascia il governo ai politici, permettendo o esortando gli uomini del suo partito, quando sono in carica, ad accrescere il loro potere e a usarlo su altri americani a suo vantaggio, e ululando quando gli uomini dell'altro partito sono in carica, aumentando il loro potere e schiacciandolo a vantaggio di altri americani, sta cercando di eludere le sue responsabilità e non si sottrarrà ad essa. Non può farlo. La sua libertà naturale è la responsabilità. È nato libero, controlla la sua vita e i suoi affari, ne è responsabile. Se cerca di rendere un'altra persona responsabile del suo benessere, deve cercare di trasferire il controllo di se stesso a quell'altra persona, perché il controllo e la responsabilità non possono essere separati. Chiedendo che gli uomini di governo siano responsabili del suo benessere, un cittadino chiede il controllo dei suoi affari da parte di uomini il cui unico potere è l'uso della forza. Se gli uomini che ricoprono cariche pubbliche accettano questa responsabilità di controllo, devono usare la forza, non hanno altro da usare. Allora il cittadino deve perdere l'uso dei suoi diritti umani naturali, il suo esercizio della libertà di azione e di parola, il suo diritto legale di possedere una proprietà. Devono essere controllati, limitati e impediti con la forza. L'uso della forza contro gli usi naturali dell'energia umana deve ridurre la produzione e la distribuzione della ricchezza, dei beni materiali che solo gli usi produttivi dell'energia umana possono creare. Se gli uomini credono che il governo sia responsabile del loro benessere, la crescente povertà aumenta la loro richiesta che gli uomini che ricoprono cariche pubbliche controllino gli affari degli individui. Questa richiesta aumenta l'uso della forza contro l'energia produttiva. Questo uso della forza deve distruggere progressivamente tutte le protezioni dei diritti umani naturali di un cittadino americano e alla fine, se finalmente protesta, la sua vita stessa. Gli uomini che ricoprono cariche pubbliche non possono impedire questo risultato della loro assunzione o accettazione di responsabilità per il benessere dei cittadini più di quanto possano impedire all'acqua di cercare il proprio livello. I cittadini che si sottraggono alle responsabilità di questa Repubblica, se diventano abbastanza numerosi, possono distruggere la Repubblica, la rivoluzione e l'intero mondo moderno, ma nessuno di loro può sottrarsi alle responsabilità, ognuno di loro sarà responsabile. Il governo americano non è un governo del vecchio mondo, non è l'uso della forza nel tentativo di controllare i sudditi che cercano di sottomettersi perché credono all'antica superstizione che l'autorità li controlli. Il governo americano è un uso limitato della forza, consentito da uomini liberi che stanno guidando una rivoluzione mondiale. Il governo americano è unico sotto due aspetti. È un tipo di governo che non è superiore all'individuo, ma è permesso dall'individuo e non è un governo di un'autorità sovrumana né di un'autorità vivente, ma è un governo di diritto. Questa fu l'incredibile apparizione che fece inorridire il popolo francese sotto l'occupazione americana. Quando questo governo attraversò il Mississippi 138 anni fa, i francesi dissero: "Questi americani sono barbari, non hanno un governo, nessuno li governa." Gli americani, altrettanto inorriditi, dissero: "Questi francesi sono barbari, non hanno un governo, non hanno leggi." Il governo per legge è un esperimento audace che non ha ancora 2 secoli, nessuno sa ancora se potrà affermarsi in modo permanente. La superstizione, quella profonda oscurità delle menti umane, sostiene tutti gli altri tipi di governo. La soggezione, il timore, il desiderio del soprannaturale creano la convinzione che l'autorità controlli gli individui. Nel comunismo si ritiene che questa autorità sia sovrumana, un grande spirito di qualche tipo, una legge di Licurgo o una volontà delle masse. In tutte le forme di governo da parte di governanti viventi si suppone che il governante abbia una qualità sovrumana. È un dio vivente, il faraone, l'imperatore romano, il Mikado, o è l'agente personalmente nominato da Dio sulla terra, lo zar, i re di diritto divino. O Dio lo ha reso un tipo superiore di essere umano, gli Asburgo, gli Hohenzollern, o è egli stesso un potere mistico pagano, Hitler. Questa superstizione generale sostiene l'uso della forza da parte di un sovrano vivente, egli comanda la polizia e l'esercito. Finché la maggioranza dei sudditi crede che egli sia l'autorità, la polizia e i soldati gli obbediscono ed egli può sempre usarli per terrorizzare, imprigionare, torturare e uccidere qualsiasi individuo o minoranza ribelle. Il potere della superstizione nelle menti umane ha sempre reso inutile che i governanti avessero un'autorità scritta. Fino all'inizio della rivoluzione, il governo si è sempre basato su credenze superstiziose. Ma nessuna superstizione sostiene la Costituzione americana. È intangibile, ma nessuno crede che sia un Dio. Né dà ordini alla polizia o all'esercito. La legge non è altro che parole su carta. Il suo unico potere è la libera volontà degli individui, dei funzionari pubblici che giurano di obbedire e dei cittadini che insistono per obbedire. Che cosa tiene il funzionario pubblico al suo giuramento? Nient'altro che la sua coscienza e la vigilanza di moltissimi cittadini. Consideriamo la situazione attuale di un politico americano eletto a una carica. La Costituzione limita la durata della carica e fissa il suo stipendio. Riceverà quella cifra, che la guadagni o meno. Non ne riceverà di più, anche se la guadagnerà due volte. Ha giurato di obbedire alla Costituzione che limita il suo potere, il suo onore e, se è intelligente, il suo patriottismo, lo trattengono da quel giuramento. Tutti gli altri incentivi che gli esseri umani sentono lo spingono a infrangerlo. Se vuole fare del bene, come lo vede lui, ai cittadini ha bisogno di più potere. Se vuole essere rieletto, ha bisogno di più potere da usare per il suo partito. Se vuole denaro, ha bisogno di più potere. Può sempre venderlo a qualche acquirente desideroso. Se vuole pubblicità, lusinghe, maggiore autostima, ha bisogno di più potere per soddisfare i riformatori che chiedono a gran voce di fargli una pubblicità lusinghiera. E cosa gli impedisce di usare più potere? Legge costituzionale, parole su carta, la sua unica forza è quella morale. Una cosa protegge l'esercizio dei diritti umani di un americano impegnato, la sua libertà di azione e di parola, la sua casa, i suoi affari, il suo denaro, la sua vita, dalla violenza tirannica che i governi hanno sempre usato e che Hitler, Stalin, Mussolini, Franco e il Mikado stanno usando ora sui loro sudditi, la coscienza del politico americano, l'unico sostegno che la sua coscienza ha contro l'intero peso dei suoi interessi materiali e politico-personali è la vigile difesa dei diritti umani di ogni americano. Questa è una chiara dichiarazione della situazione reale. Gli uomini che per primi hanno guidato la rivoluzione hanno compreso questo rischio. Non avevano iniziato la rivoluzione, erano più cauti. Preferivano continuare il processo molto lento di modifica del governo britannico, ma gli americani sconosciuti, i contadini, i marinai, gli artigiani, gli uomini di frontiera, spinti dalla necessità di vivere su questa terra nuda, si liberarono dai controlli economici che limitavano le loro energie, combatterono l'ordine sociale feudale fino a portare i regolari britannici in America a sottometterli. Allora, i gentiluomini americani, lavoratori essi stessi che conoscevano la realtà, accettarono la distruzione dell'ordine sociale qui e impegnarono la loro vita per la rivoluzione. Dopo 6 anni di guerra che si trascinava da tempo e che si concludeva con l'aiuto straniero, e dopo altri 6 anni di confusione e di scoraggiamento, quando Washington non aveva più nemmeno la speranza che aveva provato a Valley Forge, fecero un ultimo sforzo per salvare la rivoluzione e scrissero la Costituzione federale. Con buon senso, non ne hanno discusso pubblicamente, hanno aperto la convention chiudendo le porte e impegnandosi a mantenere il segreto sulla discussione. Quel manipolo di veterani e quell'assemblea di giovani trentenni erano dei realisti dalla testa dura, sapevano che nient'altro che l'onestà più assoluta e il parlar chiaro avrebbero potuto salvare l'esistenza della rivoluzione e che nessun uomo pubblico, a parte Thomas Paine, aveva mai rischiato di dire la verità in pubblico. Non avevano una fede fantastica nel popolo, non avevano l'idea di consultare o obbedire all'opinione pubblica più di quanto avesse fatto Wilbur Wright quando cercava di inventare un aeroplano. Sapevano che la vera responsabilità di ogni uomo è nei confronti del proprio standard morale, come disse realisticamente Washington. Se per compiacere il popolo offriamo ciò che noi stessi disapproviamo, come potremo poi difenderlo? Innalziamo uno standard al quale i saggi e i giusti possano rifarsi. L'evento è nelle mani di Dio. Per settimane lottarono con discussioni, compromessi, trattative per costruire un nuovo tipo di governo. Il disaccordo fu così profondo che il lavoro sembrò impossibile. Si aggiornarono per 3 giorni, decidendo di passare quel tempo non con i loro sostenitori, ma in compagnia dei loro avversari. La Costituzione non era il loro ideale, era il meglio pratico che potevano ottenere. Era un compromesso, uno sforzo, era una speranza disperata. Poi uscirono e combatterono per altri 2 anni con tutte le armi politiche che avevano contro il potente gruppo di pressione che chiedeva la responsabilità individuale della monarchia. con argomentazioni, discorsi, appelli alla logica, alla giustizia, al buon senso, opuscoli, giornali, libri e accordi politici, con tutte le armi a loro disposizione, combatterono contro le folle in rivolta che chiedevano la democrazia, il governo della maggioranza che crea sempre un tiranno irresponsabile. E quando vinsero, quando riuscirono a far accettare a 9 stati la Costituzione emendata con 10 divieti aggiuntivi al governo, quando almeno avevano salvato l'esistenza della rivoluzione attraverso quella crisi, Jefferson poté solo dire che avevano fatto il meglio che potevano. Il futuro, disse, deve mostrare i risultati, qualunque siano i risultati, essi dipendono dagli individui, poiché ogni individuo si autogoverna. Il governo costituzionale americano è oggi il più antico governo esistente, è l'unica forma di governo presente sulla Terra che è stata sufficientemente flessibile, ben adattata alla realtà, da sopravvivere alle tensioni di un secolo e mezzo. Tutti gli altri governi sono stati distrutti in quel periodo dalla guerra o dal conflitto tra l'energia umana e la forza coercitiva del governo. Gli uomini che hanno inventato questo tipo di governo non erano degli entusiasti, non elaborarono alcun piano per un mondo migliore, non si fecero illusioni e non sognarono alcuna utopia. Il loro realismo è visibile nelle costituzioni che scrissero. Progettarono la Costituzione federale con la ferma intenzione di impedire a qualsiasi uomo che ricoprisse una carica pubblica di usare il monopolio della forza del governo per sequestrare, torturare e uccidere arbitrariamente gli americani comuni. Sapevano che lo scopo di tutte le rivolte, nei 60 secoli di rivolte del vecchio mondo, era stato quello di dare un controllo immaginario e un monopolio reale della forza a uomini che non avrebbero usato la forza in modo atroce. Ma dopo ogni rivolta, prima o poi, chiunque sia salito al governo ha usato la forza in modo atroce.